Blu Radio Veneto. I giorni della Chiesa. Eventi e incontri della Diocesi di Padova. Ben ritrovati ancora da Mirko Cavallini Studio e di Daici in regia, ancora spazio di approfondimenti, di ascolto e di riascolto di alcune serate che si sono svolte nel tempo recente, nel corso di questo anno pastorale nel territorio della Diocesi di Padova. Proseguiamo e siamo al terzo appuntamento del ciclo di conferenze 2017 organizzato dall'Associazione Ex Alunni dell'Antonianum, il centro dei Gesuiti a Padova, in Prato della Valle, sul tema la medicina, arte, scienza e pratica etica. Dopo gli interventi della Ragioneria Generale dello Stato, Daniele Franco, sul costo della salute e l'allocazione delle risorse, dopo l'intervento del professor Carlo Casalone sull'etica del nascere e del morire, siamo questa sera al tema dei trapianti con Alessandro Nanni Costa, direttore generale dell'Istituto Nazionale per i Trapianti. Trapianto d'organi, atto umanitario o prodotto di un'organizzazione complessa, questo è il titolo dell'intervento del professor Nanni Costa, laureato in medicina e chirurgia, specializzato in nefrologia e poi anche in allergologia e immunologia clinica. Dal 2000 è direttore, come detto, del Centro Nazionale Trapianti, che si occupa del coordinamento di tutte le attività che riguardano la donazione degli organi, la loro allocazione e il successivo trapianto. Buon ascolto. I giorni della Chiesa. Occasioni come questa mi sono capitate raramente in questi anni, perché credo che consentano non tanto una presentazione di dati, di attività, quelli li lasciamo ad altri momenti, ma semmai il tentativo di una riflessione generale su quello che si è fatto e su quello che è la trapiantologia in Italia vista in senso ampio, vista anche nelle sue implicazioni etiche e anche in quello che è il punto del dove vogliamo andare. Io so di parlare in una città che oggi è in un ospedale, che oggi è il primo in Italia per i trapianti. Lo dicono i numeri, non è una valutazione che si basa su qualche collega, alcuni dei quali sono qui presenti in aula. E io saluto Luisa Murer, saluto il professor Gotti, saluto Luisa Tenderini, ma volentieri, e saluto Don Pegoraro, che continua a darci una mano, non lo vedo dov'è in questo momento, ma continua a darci una mano su delle problematiche di enorme importanza come quelle del Samaritano. Detto questo, però, mi piace anche ricordare chi lavora qui a Padova, i trapiantologi, il cuore con il professor Gerosa, il fegato con il professor Cillo, il polmone con il professor Rea e tante persone che lavorano qua. Emanuele Cozzi, col quale siamo così vicini che alla fine uno si dimentica di citare, che è uno dei più grandi immunologi europei sicuramente e forse anche sulla scena internazionale. Però, detto tutto questo, a che cosa serve? Anche il titolo che ho cercato di mettere assieme le problematiche organizzative e le problematiche etiche. E cercherò di dare un excursus, impostandolo come chiacchierata, senza diapositive, e proprio cercando di riflettere su alcuni concetti di fondo. Se oggi parliamo di trapianto, la prima cosa che viene in mente è la complessità. Perché la complessità? Perché oggi il trapianto è, in termini di organizzazione sanitaria, l'organizzazione più complessa all'interno dell'ospedale. E all'interno di una rianimazione, il trapianto è, dal punto di vista la donazione è dal punto di vista organizzativo una delle azioni più complesse. Calcoliamo e considerate che ogni volta che c'è un evento donazione-trapianto, vengono coinvolte circa 150-200 persone per un singolo evento, ragionando con un normale prelievo multiorgano. Da dove vengono questi numeri di 150 persone? Tanto cominciamo a pensare all'equipe di rianimatori che si trova a interagire con il donatore. Ovviamente il donatore è un soggetto di cui viene accertata. La legge italiana è chiarissima, dice le condizioni per un prelievo di organi sono due, che sia stata accertata la morte, e qua c'è il professor Rigon che è uno dei papà della legge sulla morte, che è del 1993 e abbiamo un'ottima legge, e deve esserci un'espressione di volontà raccolta secondo le modalità previste dalla legge. Queste sono le due condizioni. Se si verificano queste due condizioni si può procedere al prelievo. Bene, voi pensate che in un soggetto che magari è entrato da poche ore in rianimazione o in rianimazione anche da diversi giorni, nel giro di pochissime ore bisogna accertare se ha patologie infettive o neoplastiche o le ha avute, se queste patologie sono trasmissibili o no attraverso l'organo, e vi assicuro che la trasmissione di queste patologie e la valutazione del rischio neoplastico è qualcosa di completamente diverso da quelle che sono i normali criteri, perché per esempio dico una cosa che ai colleghi medici credo colpirà: se esiste un antibiotico al quale il batterio accertato nel donatore è sensibile, noi consideriamo basso rischio e procediamo. Questa è una cosa, quindi noi trapiantiamo reni infetti, fegati infetti, perché pensiamo che tratteremo l'infezione nel ricevente. Ecco, solo questo concetto di medicina credo che sposti quelle che sono le normali idee che ci possono essere. E altrettanto succede, magari ci torniamo, per il rischio neoplastico. Perché la trasmissibilità di una neoplasia da donatore a ricevente è un fatto rarissimo, per varie condizioni, ovviamente può succedere in ogni momento e quindi noi dobbiamo evitare il rischio in ogni momento. Però immaginate di dover fare queste valutazioni non attraverso uno screening fatto con tranquillità nell'arco di diversi giorni, ma magari uno screening fatto di notte con i servizi urgenti. E non vi dico in quanti ospedali è difficile fare un esame urine di notte, perché non mi credereste, perché di notte ci sono nelle strutture centralizzate delle bellissime macchine, ma manca quello che magari guarda se ci sono delle forme immature nel sangue oppure guarda che cosa c'è in un sedimento urinario, e certe volte è importante. Quindi immaginiamo che attorno al lavoro, se consideriamo anche le unità infermieristiche di un singolo donatore, per arrivare al prelievo consideriamo già una trentina, quarantina di persone come minimo. Poi, perché, anche perché si va in sala operatoria, ci vuole tutto il personale di sala operatoria, ci vogliono le equip che arrivano da fuori, ma un'organizzazione complessa. Poi immaginate che per ciascun organo arriva un'equip. Arriva un'equip che non è composta da una persona, è composta da almeno tre persone. E se abbiamo un prelievo multiorgano, mettiamo assieme, diciamo, tranquillamente altri 12 chirurghi. Poi immaginate che dopo il prelievo di organi ognuna di queste equip deve tornare alla propria sede e avrà bisogno di un'ambulanza, avrà bisogno di un mezzo e magari avrà bisogno di un aereo di Stato oppure avrà bisogno di un volo privato che lo porti dal punto A al punto B, che per esempio può essere da Palermo a Padova tranquillamente. E questo succede ogni giorno, ogni notte. Quantitativamente, per dare un'idea, lo scorso anno sono stati fatti in Italia 3.700 trapianti fra il cadavere e il vivente. Di questi almeno 3.700, più di 3.000 non sono stati trapiantati, certamente, escludendo i viventi, nella sede, nell'ospedale dove sono stati prelevati. Quindi questi 3.000 hanno richiesto un trasporto in cui c'è stato un mezzo, un'ambulanza, dall'aereo all'aereo di Stato, all'ambulanza, a quello che c'è. Quindi autisti, turni di reperibilità. Prima c'era stato un accertamento di morte, ovviamente, anche questo richiede personale. Poi per ciascuno di questi organi che arrivano in un ospedale, immaginate, qui c'era Paolo Rigotti, arriva un rene a Padova. Bene, quando arriva il rene a Padova qualcuno deve chiamare il ricevente, deve controllare che il ricevente sia in ordine. Come minimo gli faranno un elettrocardiogramma, gli faranno una lastra del torace per escludere eventuali infezioni e gli faranno un prelievo, perché probabilmente il chirurgo prima di andare in sala vorrà vedere o no se i globuli bianchi sono normali o meno. Adesso dico le cose più semplici, più banali. Moltiplicate questo per 4 volte sul singolo evento. Ragionare delle nostre 150 persone è poco, quindi quando uno dice 15 equipe, 150 persone, è poco. Non c'è niente di così complesso nell'organizzazione della sanità. Non c'è niente, nel senso che non c'è nessuna azione che non si svolga in un contesto clinico medico-paziente. Immaginiamo anche il più ipertecnologico possibile, ci sarà sempre un paziente di fronte a un'equipe di medici. Ma qui abbiamo un unico punto sorgente da cui partono altre realtà che vanno negli altri ospedali. Noi siamo abituati a considerare queste attività di routine, ma immaginate che per ogni rene che arriva o per ogni organo che arriva ci sono poi magari delle sedute operatorie che saltano il giorno dopo. Oppure, perché nessuno sa, il trapianto d'organo è l'intervento tipicamente di emergenza, nel senso che deve essere fatto in tempi brevi ed è assolutamente imprevedibile come tempi. Quindi immaginate a che stress vengono sottoposte le strutture, e sono strutture di tutta Italia. Questa difficoltà organizzativa, questa difficoltà operativa, questa complessità operativa che abbiamo visto dalla donazione come atto più complesso, come velocità e tipologia delle indagini che devono essere fatte in una rianimazione, non per la difficoltà di ciascuna di essa, ma per l'insieme di queste e la tempistica che hanno, abbiamo visto sul trapianto. Immaginiamo che cosa vuol dire ragionare invece su una scala un po' più grande in termini organizzativi, cioè quali sono le condizioni che ci consentono di poter fare una regolare attività di trapianto. Innanzitutto dobbiamo avere in ogni rianimazione degli specialisti. Abbiamo cominciato anni fa, dal 99, con il cosiddetto modello spagnolo, dove in ogni rianimazione c'era uno specialista che chiamiamo coordinatore locale, un rianimatore che si dedica espressamente a questo. Adesso abbiamo capito che non serve formare il coordinatore locale, dobbiamo formare tutti i rianimatori e dobbiamo formare tutto il personale infermieristico, che è fondamentale per il contatto con i familiari del donatore. Al di là che questo abbia detto prima nella carta d'identità adesso o nel sistema informativo, anche abbia espresso una volontà di donare l'organo, il contatto col familiare è sempre uno dei passaggi fondamentali per una ragione di umanizzazione ancora prima che di una ragione di permessi di legge. E immaginate quindi questa complessità organizzativa. Allo stesso tempo non si può pensare che un centro, cito ancora Padova per il trapianto di rene, che fa 150 trapianti all'anno, non abbia una specifica organizzazione dedicata a questo, e che comunque qualsiasi chirurgo non abbia delle equipe reperibili, non abbia dei sistemi che consentano per esempio di sapere quando c'è un organo o no, ci stanno offrendo un organo, lo prendiamo o non lo prendiamo? Abbiamo riceventi adatti a quest'organo o no? Abbiamo studiato bene i pazienti che sono indicati dagli score che vengono dati? Perché molto spesso ormai l'assegnazione degli organi, e tornerò su questo punto, dipende da score matematici. Perché io devo avere prima un qualcosa che mi escluda qualsiasi scelta ad personam in quel momento. Quindi arriva un organo, devo avere il paziente più adatto a quell'organo, ma scelto attraverso un meccanismo di scelta, di punteggio, di score, perché la mia scelta è la vita di una persona o il cambiamento radicale della qualità di vita della stessa persona. Poi tornerò sulle implicazioni etiche di tutto questo lavoro, ma immaginate solo la macchina organizzativa, immaginate la lista regionale, immaginate lo scambio di dati che ci sono sull'informatica, che è una delle più grandi possibilità, ma uno dei, non dico tormenti, ma è uno dei problemi più seri che abbiamo per poter implementare sempre nuovi sistemi informativi, operazioni sempre più corrette in un sistema che di fatto ha, come sappiamo tutti in sanità, sempre meno risorse. Quindi sto cercando di dare solo un'idea, ma immaginate anche la complessità che c'è nel scegliere il paziente, ma nell'avere studiato il paziente ricevente prima. Se io sono un centro trapianti, io devo averlo visto quel paziente prima. Quindi devo averlo visto, devo averlo classificato, devo seguirlo nel tempo prima del trapianto. Devo aver mandato al laboratorio di immunologia i campioni che serviranno al momento quando c'è il donatore a fare i test di compatibilità. devo aver fatto un insieme di studi per caratterizzarlo da un punto di vista immunogenetico. E la nostra macchina organizzativa cresce progressivamente. Poi immaginate quello che succede col follow-up. A questo nessuno ci pensa, ma in Italia ormai abbiamo più di 40.000 pazienti che vivono con un organo funzionante. E sono numeri che aumentano ogni anno, perché di quei 3.700 che abbiamo trapiantato, io dico abbiamo, ma li hanno trapiantati, lo dico sempre, i chirurghi li hanno visitati gli internisti, non siamo noi, noi raccogliamo i dati. Però noi dobbiamo avere una visione reale del sistema, di quali sono le caratteristiche, le complessità e le criticità. Questo è il nostro lavoro. Allora immaginate che ci sono 40.000 soggetti che aumentano ogni anno, che richiedono un follow-up piuttosto accurato, devono essere visti nel tempo, devono essere curati, perché il paziente trapiantato è paziente trapiantato, cioè un soggetto che sta bene, che fa una vita normale, ma è un soggetto che deve prendere delle terapie e deve essere tenuto sotto controllo. Quindi io non posso pensare di trapiantare anche 50 pazienti all'anno e non avere un'organizzazione di follow-up, che mi consente poi di seguire pazienti che spesso stanno in altre regioni e quindi determinare un insieme di caratteristiche. Quindi se noi stimiamo che nella rete trapiantologica per gli organi lavorino circa 15.000 persone in Italia, siamo forse ridotti come stima. Ovviamente nessuno, salvo qualche eccezione, lavora tutto il tempo per i trapianti. Ma che 15.000 persone debbano esprimere la parte migliore della loro professionalità per i trapianti è fondamentale. Dopo rientrerò ancora rispetto al discorso etico di che implicazioni ha questo. Per ora io voglio solo trasmettervi l'idea della complessità della rete trapiantologica. È importante questa rete? È fondamentale. Se noi immaginiamo che il trapianto sia solo un rapporto medico-paziente, non andremo da nessuna parte. Però allo stesso tempo il trapianto deve essere anche un rapporto medico-paziente. Pensiamo per esempio al paziente pediatrico. Il bambino ha bisogno di crescere col trapianto. La famiglia ha bisogno di crescere assieme al bambino, sia quando sono in lista di attesa, sia quando hanno fatto il trapianto. E il trapianto ha quindi un versante di umanizzazione che fa parte della cura, come forse poi dovrebbe essere di tutte le cure che vengono fatte in ospedale. Ormai tutti i reparti trapianto lavorano con gli psicologi e sono psicologi che vengono utilizzati sulla lista di attesa e sono psicologi che vengono utilizzati dopo la lista di attesa. Ecco, questo è per dare l'idea di quello che è il trapianto, e parliamo del trapianto di organi. Ma in Italia si fanno anche 5.000 trapianti di staminali emopoietiche. Tra questi 5.000 trapianti abbiamo gli autotrapianti, abbiamo i trapianti da registro di staminali emopoietiche, quelli che quando c'è un paziente, anche qui a Padova, ha bisogno di un midollo da un donatore identico a lui, da uno sconosciuto, abbiamo un'organizzazione che consente di rivolgersi a Genova, al registro internazionale, al registro italiano, che vede tutti i 450.000 donatori volontari italiani, ma vede anche i 3 milioni di europei e vede anche altri 9 milioni di donatori fuori dall'Europa, per poter scegliere quello più compatibile. Ma abbiamo anche 15.000 trapianti di tessuti, tra cui 5.000 trapianti di corne, 8.000 trapianti di ossa, 9.000, e gli altri li lasciamo fra valvole cardiache, cute, segmenti vascolari e tessuto amniotico. Allora, abbiamo una rete, e tutta questa rete è fatta di banche, è fatta di controlli. Abbiamo una rete che arriva anche, per una serie di normative, come attività nostra, alle problematiche della qualità e della sicurezza della fecondazione assistita e quindi delle pratiche della fecondazione eterologa. Quindi voi capite qual è la complessità di una rete e il fatto che tutti i pezzi di questa rete devono funzionare. Se il nostro obiettivo è chiaro ed è trapiantare in qualità e sicurezza, E questo noi possiamo anche farlo controllando, dico la cosa più semplice, ma non è l'unica, le sopravvivenze degli organi centro per centro. Ma il primo indice di qualità di un centro, come sempre succede in medicina, perché poi il trapianto è un atto medico, ed è la numerosità. Se in un centro fanno molti trapianti, quel centro funzionerà bene. Se non ne fanno molti, può darsi che funzioni, può darsi di no. Questa è una banalizzazione di quelle che sono le regole base in medicina. Ma vorrei dire, e qua entro un pochino di più sugli aspetti etici, vorrei dire che tutto questo però ha una necessità. Il mantenere una rete di che faccia ogni anno 4.000, 3.500, 700 quest'anno trapianti, una rete che abbia i 15.000 professionisti, i 15.000 trapianti di tessuti, 5.000 trapianti staminali emopoietiche, deve avere una caratteristica principale, che è la credibilità. Se la rete non è credibile, nessuno donerà il proprio parti del proprio corpo alla rete, secondo le modalità che sono previste dalle norme. Ma se io non credo, non darò qualcosa di me. Ci sono degli esempi negativi che sono evidenti ed eclatanti, poi parleremo anche del traffico degli organi, ma questi esempi negativi, l'esempio più chiaro è quello della Germania. Fra il 2013 e il 2014, in almeno 5 centri trapianto tedeschi, sono state scoperte delle pratiche illegali per l'assegnazione degli organi. L'assegnazione degli organi a un centro tedesco dipende da un'organizzazione internazionale che si chiama Eurotransplant, che comprende i paesi di lingua germanica, l'Olanda, e adesso alcuni paesi dell'est. Questa è il Belgio. Questa organizzazione assegna gli organi su degli score. C'è un donatore da qualche parte all'interno dell'organizzazione, secondo determinate regole viene assegnato alla Germania e ad alcuni centri tedeschi. Bene, si è scoperto che questi centri tedeschi imbrogliavano sui parametri che venivano utilizzati. Questa è una notizia che in Europa ha girato, in Italia ha girato molto poco. Se fosse successo in Italia sarebbe successo di tutto e di più. Che cosa facevano? Vi dico l'esempio più banale. L'assegnazione di un fegato su una lista di pazienti dipende da un indice che si chiama, una sigla, si chiama MELD. Questo indice MELD dipende da tre parametri biologici, che non sono soggetti a una valutazione clinica, ma sono la creatinina, l'INR e la bilirubina. Con un algoritmo, mettendo questi tre parametri, esce uno score che per le gravi insufficienze epatiche va da 15 a 30. Se io ho 30 di MELD, devo dare una priorità a quel paziente perché ha elevate probabilità di morire entro poche settimane. Se ho meno di 15 di MELD, non ho un paziente idoneo al trapianto, è ancora troppo presto. È chiaro che avere un MELD un po' più alto, un po' più basso, determina e cambia la vita di una persona. Questo ce l'ha detto anche, sia pure in maniera un po' troppo automatica, AIFA, sui criteri di assegnazione degli antivirus C, perché ci voleva un MELD di 26, cosa un po' eccessiva rispetto a queste cose, perché non c'è solo il MELD, in una valutazione clinica forse bisogna usare un criterio di un certo tipo. Però di fatto il MELD è così. Bene, è stato scoperto, e ne faccio solo un esempio, che in alcuni centri tedeschi le analisi sui campioni da cui veniva il MELD che venivano inviati a Leiden, cioè a quelli che fanno le scelte, venivano mescolate il sangue e veniva aggiunta dell'urina. Tutti sappiamo che nell'urina c'è molta creatinina e quindi le creatininemie di quel sangue si alzavano e i referti di quel sangue indicavano una creatinina più elevata e l'indice MELD cresceva. È stato successo questo, ma in centri importanti, un centro di Monaco, il centro di Ulm, un centro nella Germania centrale, cioè parliamo, ci sono professionisti che sono stati arrestati. Perché è successo tutto questo? Perché nessuno controllava questi centri chirurgici e che quindi si sono sentiti liberi di fare queste irregolarità. E credo, e dico una battutaccia, che dopo 5 centri hanno smesso di controllarli, perché altrimenti ne avrebbero trovati di più. E a seguito di questo è stato cambiato il coordinamento tedesco, è stato rivista le normative tedesche, ma riportandoci al dato iniziale le donazioni sono crollate, per forza. Perché se io ho un sistema dove so che ci sono degli imbrogli, non donerò parti di me. Quindi tutta quella complessa rete che ho cercato così di non descrivere ma accennare prima, si basa sulla fiducia. In fondo, guardate, quando c'è un donatore in un ospedale, supponiamo che questo donatore non abbia espresso nessuna volontà, e quindi secondo la legge italiana ci sono una parte dei suoi familiari può rifiutare, opporsi alla donazione, che la legge vede come via naturale. Bene, questo donatore, questi familiari si chiederanno tre domande, poi le dicono o non le dicono, le vivranno culturalmente con i loro strumenti, ma le tre domande sono: primo, è veramente morto? Perché io vedo uno che grazie al ventilatore respira, vedo i polmoni che si allargano, vedo il cuore che batte, quindi è veramente morto? La seconda domanda è: voi mi dite che è morto, è entrato in questa rianimazione vivo? Avete fatto tutto il possibile? E qui la domanda è: come sono stato accolto in pronto soccorso? Mi hanno sbattuto la porta in faccia? Mi hanno lasciato per delle ore fuori da un pronto soccorso a chiedermi cosa aveva mia moglie, mio padre, mio marito, mio figlio? E non mi hanno detto niente? Oppure apro un contenzioso perché non mi fido di che cosa stanno facendo, o magari, come capita a volte, ho già un contenzioso in atto con un ospedale e voi in questo momento mi venite a chiedere gli organi? Perché funziona così, eh? E allora lì bisogna essere credibili. Ed è la terza domanda. Cioè bisogna saper spiegare la morte con criteri neurologici, e non è facile. Non entro in dettaglio, ma non è facile. Soprattutto dipende dal grado di cultura e dal grado di capacità di spiegare che ha rianimatore. Poi la seconda è: come sono stato trattato all'interno dell'ospedale della rianimazione? Mi hanno accolto con umanità? Ma la terza domanda è quella: che interesse avete a togliere gli organi a questa persona? E questi organi voi mi dite che andranno in liste di attesa, quello più adatto, tutto quello che vogliamo, ma voi cosa ci guadagnate? Perché la gente chiede questo. Allora, solo se io ho alle spalle un'organizzazione sulla quale posso dire la mia organizzazione è credibile, perché segue dei principi di chiarezza, di trasparenza, segue linee etiche, solo da questo punto di vista allora noi potremo chiedere con tranquillità alle persone gli organi. E ci sono certe volte delle storie che poi a noi succedono ogni giorno, che sono bellissime. Cioè, negli scorsi giorni a Palermo c'è stata una donazione perché un poliziotto si è suicidato, era una persona gravemente depressa, e questo capita nella malattia depressiva. La moglie ha voluto immediatamente donare gli organi, che sono stati prelevati e sono in corso di trapianto adesso, proprio perché era un suo profondo desiderio di quel momento lì. Come chi ha vissuto i problemi delle rianimazioni pediatriche sa quali sono gli strazi dei genitori davanti al bambino morto magari per un trauma, e che attraverso un percorso riescono comunque ad accettare l'idea della donazione degli organi di una parte. Allora noi dobbiamo essere credibili, dobbiamo essere umani, dobbiamo non solo saper dire le cose. Ci sono dei corsi di neurolinguistica che io farei fare volentieri a una parte dei rianimatori, perché quando il rianimatore chiede con le mani in tasca dicendo: ma signore, adesso poi è morto, io devo dirle anche questo, se vuol firmare questo foglio qui io le scrivo che il suo congiunto è morto e adesso lei mi deve firmare se si oppone alla donazione degli organi o no. Se una richiesta di organi viene fatta in questo momento, la risposta è no, 95 volte su 100. Se io lascio tempo, lascio ragionare, cerco, c'è un bellissimo film che è uscito in questi giorni, che si chiama Riparare i viventi. È un film francese, è uscito nelle sale cinematografiche, fra un poco speriamo di poterlo usare in senso didattico. Ci sono questi colloqui dei familiari di un ragazzo che muore con un trauma stradale e con i medici della struttura, che sono assolutamente credibili e assolutamente veri, perché c'è prima una reazione violenta di rifiuto, poi capiscono che nel modo di non fare niente c'è questo. E sappiamo che ci sono degli studi che dicono che le famiglie che hanno accettato di donare gli organi stanno meglio e vivono meglio il lutto delle famiglie che hanno rifiutato di donare gli organi. Quindi dobbiamo essere credibili. Non dobbiamo essere credibili solo in questo, e proseguo nella mia scaletta, ma vi vorrei citare degli esempi dove dobbiamo essere credibili. Il primo è il trapianto da vivente. In Italia abbiamo dei sistemi molto precisi che di fatto ci portano, guardo Don Pegoraro che lavora con noi su questo, ma che di fatto ci portano a escludere, e forse semplifico, ma credo di no, che ci possano essere degli accordi donatore-ricevente sotto banco. In Italia il donatore può essere una persona familiare, ci può essere un legame genetico, ci può essere un legame di legge, marito-moglie, ci può essere un legame solamente affettivo. Il legame genetico è ragionevole che sia, ormai abbiamo degli immunodepressori che ci consentono di fare i trapianti marito-moglie con un minimo di compatibilità, anzi diciamo più in assenza di incompatibilità. E abbiamo molti casi di comunità, sono comunità religiose, ma sono anche comunità rom, sono anche comunità parrocchiali, sono comunità di vario tipo. E siamo in grado di accertare, attraverso dei colloqui che vengono fatti separatamente, con una commissione che chiamiamo commissione di terza parte, che non è coinvolta né col donatore né col ricevente. E siamo in grado di filtrare e di capire, ci sono stati dei casi anche qui a Padova, là dove c'erano delle influenze che lasciavano delle perplessità, e di fermarci. Poi ovviamente c'è anche il magistrato civile che deve controllare e autorizzare. Cioè abbiamo sistemi sicuri sul vivente. E dobbiamo aumentare il vivente, perché ormai se abbiamo in lista di attesa per rene un soggetto giovane, probabilmente gli verrà offerto al nostro donatore medio, che è un donatore di 62 anni, come me, spesso un po' sovrappeso, iperteso, che ha avuto un accidente vascolare. Quindi per un trentenne che ha bisogno di un rene non è questo l'organo migliore che possa ricevere. Ecco perché dobbiamo assolutamente incrementare il trapianto da vivente e dobbiamo rappresentare ai pazienti, non entro nel fegato che ha una storia più complicata e più difficile, ma ci rendiamo conto tutti che una emiepatectomia è un intervento di una gravità, insomma, che va fatto con un certo rigore sul donatore, mentre una nefrectomia è un intervento relativamente più semplice, che però deve essere fatto con estremo rigore sul donatore. Il non nuocere è sempre la prima regola in medicina. Allora, il trapianto da vivente deve essere fatto, e in ogni famiglia o in ogni comunità, laddove c'è un paziente, l'ipotesi del vivente va esplorata subito, immediatamente. Dobbiamo organizzare, come è stato fatto qua, dei tour nei reparti dialisi, magari con lo psicologo, gli infermieri e i pazienti, per far vedere ai pazienti che questa possibilità non è riservata a pochi, ma è una possibilità concreta. E c'è un modello veneto che sta funzionando in tutta Italia. Oggi, lo scorso anno, siamo riusciti a fare 280 trapianti, 275 da vivente, e l'anno prima 300, mentre molti rispetto ai 150 solo di 3 anni fa. Questa è una linea da prendere. Su questa poi abbiamo delle belle realtà, come sono i samaritani. Chi è il samaritano? Il samaritano è un signore che decide di donare un proprio rene e non sa a chi, e non lo saprà mai. Quando i samaritani nacquero, noi pensavamo, non dico a un'ipotesi teorica, ma quasi. Ovviamente al samaritano viene fatto un primo screening in una serie di colloqui, All'inizio abbiamo avuto molte persone che dicevano che volevano donare un rene, poi al primo colloquio dicevano cosa mi date, e la relazione ovviamente finiva lì. Adesso abbiamo diversi percorsi di samaritani e il Veneto si sta rivelando la regione più ricca di samaritani. Ce ne sono già due, i primi due samaritani sono della Lombardia. Il terzo samaritano si è anche dichiarato, è questo panettiere di Treviso che ci ha detto delle cose, di Vicenza, che ci ha detto delle cose bellissime, ed è una delle storie, nella sua semplicità è una storia estremamente efficace. Questo signore, questo fornaio, aveva un ragazzo che aveva bisogno di un rene, che andava tutti i giorni a comprare il pane, e gli aveva confidato che non riusciva a vivere in dialisi e ne aveva bisogno per il lavoro, per la sua vita, e questo si è convinto a offrirgli un rene. Quindi era una donazione che è partita dedicata a due persone legate affettivamente. Poi questo ragazzo non ha più potuto, non so perché, ma mi fido di quello che dicono i nefrologi di Vicenza, che sono assolutamente capaci da questo punto di vista, non ha più potuto ricevere l'organo. E questo fornaio ha detto, e ce l'ha detto in diretta, parlando con il ministro in conferenza stampa, collegato col telefono, dice: io a quel punto ho detto, perché no? Perché no? Ed è una domanda bellissima, cioè nel momento in cui io ho deciso di donare un mio organo, perché no? E io vi devo dire che negli ultimi mesi stiamo individuando diversi samaritani. E speriamo di fare il prossimo prelievo. Anche qua abbiamo un altro che ha una scadenza, questi donatori che lavorano e hanno scadenze di lavoro. Dovremmo arrivare, io spero, nel giro di 20 giorni, un mese, a cominciare una nuova catena, e sarebbe la quarta. E abbiamo visto che siamo capaci di fare queste catene. Che cosa vuol dire fare una catena? Qui chiedo 20 secondi un po' più tecnici. Ci sono delle coppie di reni di donatori ricevente da vivente che non possono donare l'organo per una incompatibilità di gruppo AB0 o perché il ricevente ha anticorpi contro il donatore, contro gli antigeni di stocompatibilità del donatore. Adesso l'AB0 si riesce a trattare bene perché si desensibilizza e si rende compatibile il donatore A a un ricevente 0, togliendogli quegli anticorpi naturali che impedirebbero il trapianto, impediscono le trasfusioni di sangue, eccetera. Se ci sono degli anticorpi anti-HLA, la desensibilizzazione può essere fatta, però nel medio-lungo non dà dei grandi risultati. Allora noi che cosa facciamo? Abbiamo un samaritano, cerchiamo un ricevente compatibile con il samaritano, ma incompatibile col suo donatore. Poi prendiamo questo donatore che si è reso libero e andiamo a cercare un altro ricevente incompatibile. Quindi dal samaritano trapiantiamo il ricevente della coppia A e liberiamo il donatore della coppia A. Col donatore della coppia A trapiantiamo il ricevente B. Col donatore della coppia B trapiantiamo il ricevente C e possiamo costruire delle lunghe catene. Siamo arrivati a mettere assieme fino a 6 coppie, ma questi sono tutti pazienti che sarebbero assolutamente intrapiantabili. Non abbiamo altro sistema che cercare un donatore, poterlo studiare con calma, e questo signore non è correlato con chi riceve l'organo, non sanno nemmeno chi è la rete che attraverso una serie di studi, anche piuttosto sofisticati, riesce a individuarlo. E quindi la risorsa di un rene ci consente di trapiantare 5-6 pazienti assolutamente intrapiantabili in altra condizione. Forse sono stato poco chiaro, forse qualche collega mi ha capito, ma questo è il concetto importante. Dalla risorsa 1 non trapiantiamo uno come col trapianto da vivente o con la donazione da cadavere. Con la risorsa 1 riusciamo a trapiantare 5 o 6. Questo è bellissimo. Cos'è il contrario di tutto questo? È l'organ trafficking. Cos'è il traffico di organi? Quando si dice traffico di organi, noi pensiamo a dei soggetti presi, uccisi e i cui organi vengono prelevati. Abitualmente il traffico di organi è qualcosa di più subdolo, ma altrettanto grave. È un mercato, nel senso che ci sono riceventi ricchi che pagano per un trapianto e pagano la cifra che si paga per i trapianti. Più o meno immaginiamo il nostro sistema sanitario nazionale, per ogni trapianto di rene, e adesso mi sbaglierò, ma paga circa 28.000 euro, mi sembra che sia il DRG attuale, sono circa 55 per un fegato, 55.000 euro. Immaginiamo che ci sono degli ospedali che, fuori dal Servizio Sanitario Nazionale, incassano cifre simili, diciamo doppie. Dopodiché c'ho un ricevente che è in grado di pagare questa cifra e non ho il donatore. Non è difficile trovare un donatore a cui dare un cinquantesimo di questa cifra, cioè $1.000, e portarlo a donare un organo. Basta che lo recluti in Somalia, basta che lo recluti in Eritrea, basta che lo recluti nel Vietnam, basta che lo recluti in Laos, basta che lo recluti in Cambogia, basta che lo recluti fra virgolette fra i migranti che attraversano l'Egitto e lo trovo con una piccola promessa di denaro. Ci sono anche dei casi che veramente lasciano difficili da classificare quello che succede in Iran. In Iran c'è un elevatissimo numero di trapianti da cadavere, ma c'è anche la possibilità, se un soggetto decide, di donare retributivamente un organo a un'organizzazione statale. Gli danno circa 5.000 euro. Dopodiché quell'organo viene assegnato come se fosse una donazione da cadavere. Ora, e ci sono proposte importanti negli Stati Uniti e anche da qualche organizzazione europea sotto traccia di passare anche in Europa la donazione remunerata come soluzione per la carenza di organi. Noi siamo contrarissimi, perché l'unico modo che abbiamo per salvare il sistema della donazione è che la donazione sia libera e gratuita. Nell'organ trafficking la donazione non è né libera né gratuita. E vi assicuro che fa impressione, come abbiamo sentito alla Pontificia Accademia delle Scienze qualche giorno fa, sentire che gli aerei, i voli charter dall'Etiopia, dalla Somalia, dall'Eritrea, attraverso nei paesi che ha più elevata capacità trapiantologica, che sono l'India, il Pakistan e il Bangladesh, esistono. In India, dove c'è adesso una norma restrittiva, creano gli ospedali virtuali, nel senso che sono ospedali che aprono 3 giorni, fanno un certo numero di trapianti e poi chiudono, cioè vengono affittati degli alberghi, vengono affittate delle case e poi rientrano nella funzione precedente. Cito Emanuele Cozzi perché lo abbiamo sentito insieme qualche giorno fa. Quando succede tutto questo? Quando ci sono delle autorità corrotte. Perché i paesi contro la vendita, le norme contro la vendita degli organi ci sono in tutte le parti. Poi abbiamo paesi tipo l'Egitto che non danno dati sul numero degli organi trapiantati. E sappiamo che in Egitto, se in Italia abbiamo fatto lo scorso anno circa 2.000 trapianti di rene, sì, non vorrei dire dei numeri non precisi, in Egitto ne sono stati fatti, abbiamo visto, circa più di 2.000, tutti da vivente. Allora noi possiamo pensare che una buona parte di quei 2.000 non sia stata proprio con le commissioni di terza parte come abbiamo noi, ma la stessa cosa succede in un paese come la Turchia, dove l'80% dei trapianti è fatto da donatore vivente non correlato con la famiglia. Naturalmente le autorità turche, il governo turco, sono molto sicuri che tutto ciò non avviene. E avevamo gli esperti turchi contro il traffico di organi. Però cerco di farvi capire che in queste condizioni è difficile capire che cosa succede. Qual è il vero problema del traffico di organi? È che noi non sappiamo. Noi non sappiamo i numeri del traffico di organi. i numeri veri, non li sa nessuno. Sappiamo dei trapianti da viventi in Turchia, non sappiamo quanti potrebbero essere correlati al traffico di organi, questo è quello che sappiamo. L'Egitto non dà più risultati, non vi dico della Libia, dove tutto sommato qualche ospedale dove poter fare i trapianti ci sono. Una cosa è sicura, i prelievi d'organo non si possono fare negli hangar del deserto, come è stato descritto da quel trafficante di esseri umani a un giudice di Palermo nella scorsa primavera 2016. È evidente che ci deve essere un'organizzazione, è evidente che questa organizzazione ha delle coperture, ma sappiamo dagli inquirenti internazionali che almeno tre gruppi attorno ai migranti si muovono. Cosa pensiamo di fare in Italia? Una delle cose più semplici del mondo, di cercare se ci sono delle cicatrici nei migranti che arrivano in Italia. Ora, da qualche rapida indagine, poi vogliamo lavorare scientificamente in questo senso, sappiamo che non ci sono cicatrici in quelli che arrivano, però, come ci dicono, qui arrivano i sani. Quindi non sappiamo che cosa succede dalle altre parti. Questo è tutto quello che noi dobbiamo assolutamente evitare. Ma per evitare tutto questo, e vi dirò che in Italia non abbiamo più segni di turismo trapiantologico, ormai abbiamo pochi italiani che si trapiantano all'estero, meno di 20 in un anno, con 4.000 e rotti, 3.000, sbaglierò alla fine i numeri, 3.700 in Italia. E però dobbiamo non solo puntare all'autosufficienza, come dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dobbiamo lavorare perché ci sia disponibilità di organi in Italia. Cosa possiamo fare a livello internazionale? Sostenere le polizie, sostenere che il traffico d'organi è un problema che si risolve con gli accordi dei governi, cercare di capire cosa succede in grandi paesi tipo la Cina, dove certamente c'è un'organizzazione governativa che si batte contro le donazioni dei condannati a morte, ma certamente ci sono dei pezzi di Stato che le favoriscono. E a noi conosciamo un coordinatore che abbiamo rivisto dopo 3 anni in Vaticano in questi giorni, che è stato 6 mesi arrestato e 6 mesi era sparito, perché lui era uno di quelli che lavoravano con l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quindi qui dobbiamo capire che cosa succede, perché degli interessi bisogna inserire in questi paesi, come ci ha insegnato il WHO, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dei pezzi di sistema regolari. Non è che noi chiudiamo la Cina, nessuno può tirare un muro oggi davanti alla Cina, pensare solo questo sarebbe veramente un'idiozia totale, ma neanche rispetto al problema organi. Noi dobbiamo tenere presente di lavorare in questi paesi per cercare di portare gli elementi di standardizzazione. E poi è richiesta una politica internazionale. Per chi ha lavorato come me in Egitto per un certo periodo di tempo, il pensare che non si può più andare in Egitto, ed è evidente che in questo momento nessun italiano può pensare, se non per ragioni obbligatorie, di andare a lavorare in Egitto, è tristezza perché conosciamo i colleghi. Io ho visto le dialisi in Egitto, ho visto gli ospedali trapiantologici, ho visto le sale di neurochirurgia, ho visto ospedali identici agli ospedali americani in cui facevano i trapianti di fegato con ottimi risultati. È difficile pensare però che la gente che veniva curata in Egitto adesso è alla mano non si sa di chi in questo settore, perché ho visto dei servizi dialisi in garage che funzionavano alla perfezione. E quindi abbiamo di fronte una realtà nei paesi in via di sviluppo che è molto più variegata della nostra. La stessa cosa succede in Libano, la stessa cosa succede in Algeria, paesi francofoni dove ormai, non dico è difficile entrare, ma quasi. O in Tunisia, un paese vicino a noi. Non possiamo non pensare a questi paesi. Lo leggiamo tutte le volte che il nostro premier incontra quelli della Libia, ma vi assicuro che avere davanti le facce dei colleghi che lavorano in questi ospedali, in queste realtà, fa veramente impressione. Io non posso non ricordare una volta che siamo andati in Algeria, ci hanno fatto vedere un servizio trapianti a Costantina per il trapianto di rene. Siamo arrivati da Algeria a Costantina in 40 minuti, siamo tornati in un percorso che ci avremmo messo almeno 3 ore. Perché? Perché c'era stato un attacco dei terroristi sull'autostrada che avevamo fatto, l'autostrada era chiusa, ovviamente a noi non hanno detto niente, l'abbiamo imparato. Un'altra volta ci hanno spostato la sede di un convegno da un'organizzazione militare che poteva essere sotto attacco a un hotel disperso in uno strano luogo di vacanza, perché ci poteva essere un attacco sull'organizzazione militare. Mi hanno portato attraverso Algeri in un taxi apparentemente normale, ma in cui c'era un militare che a ogni posto di blocco tirava fuori un permesso, e non siamo riusciti a rimanere da soli nemmeno per prendere un caffè. Però anche lì c'è bisogno di trapianti, c'è bisogno di sviluppare la solidarietà. E arrivo alla fine di questo percorso. La donazione necessariamente deve essere gratuita, e dobbiamo pensare anche alla donazione gratuita, anche nella donazione di gameti, anche nella donazione degli ovociti, perché anche in questo ormai viviamo già delle pericolosissime deviazioni. Si può essere a favore o contro la donazione eterologa, ma non posso essere a favore di una falsa donazione, nella quale a una giovane donna con 1.000 euro do un carico di ormoni da far paura per tirare fuori, attraverso un piccolo intervento chirurgico, degli ovociti che uso in un sistema, nella quale girano già i book dicendo se gli spermatozoi donati li voglio da uno studente alto 1,80 m, o da un atleta, o da un ricercatore, o da uno che ha molti capelli e non ha la calvizie. Perché succede già tutto questo. Ed è solo da un meccanismo di donazione libera e gratuita che possiamo liberarci da queste forme di selezione genetica che sono davanti a noi, e sulle quali io devo dire il Ministero della Salute sta veramente tenendo, sui tessuti, sugli organi, sui gameti. Questa è una linea che dobbiamo assolutamente tenere. E non è facile. E non è facile. E vado verso la chiusura di questa chiacchierata, a cui spero di non avervi annoiato, ma spero di avere così dato almeno alcuni flash, dandovi l'idea di una complessità e anche della complessità dei problemi. E non vi ho detto gli eticisti, i medici legali, non vi ho parlato di quello che fa il Comitato Nazionale di Bioetica, di quello che fa il Consiglio Superiore di Sanità, della complessità che abbiamo davanti. Io voglio citare tre brani del Vangelo, e finalmente sono, credo, in una sede dove li possiamo citare, non con calma perché non si può, si può sempre, ma dove ci può essere una comprensione di chi mi ascolta. E i tre brani sono certamente Ezechiele: vi darò un cuore nuovo. È chiarissimo cosa vuol dire. E vi darò uno spirito nuovo col cuore nuovo. E pensiamo davvero che per il paziente il cuore nuovo è un'esperienza reale, diretta, immediata? Io ho visto una bambina all'ospedale Bambin Gesù mercoledì scorso, una bambina di 2 anni, trapiantata dopo un percorso difficile perché i genitori non avevano voluto il ventricolo artificiale e avevano paura di essere selezionati negativamente perché la bambina non aveva il ventricolo artificiale. Abbiamo chiesto al comitato etico dell'ospedale Bambin Gesù una regola, poi alla fine hanno accettato il cuore artificiale, abbiamo avuto un cuore donato in Grecia e trapiantato. Bene, 5 giorni dopo il trapianto ho visto uno che non aveva più niente, era seduta come ogni bambina a giocare col padre davanti al letto. E quella bambina 5 giorni prima stava letteralmente per morire. Quello è il cuore nuovo. Faccio un po' fatica qua perché un po' mi emoziono anch'io, ma vorrei cercare di farvi riflettere su un'altra cosa della donazione multiorgano. Immaginatelo spezzare il pane. Spezzare il pane è il condividere. È il gesto più semplice. Allora è difficile, e non è una mia idea, ci sono dei teologi che l'hanno detto, immaginare che il prelievo multiorgano non sia uno spezzare il pane. Lo è. E allora ogni volta che noi ci battiamo per un prelievo multiorgano, spezziamo il pane per qualcuno. Oggi ho parlato con diciamo anche il nome e cognome, con il dottor Boschiero, col professor Boschiero a Verona, per un organo accettato ieri, che aveva avuto una serie di problemi, che ha sentito anche mia moglie che mi occupa da... che ci ha, mi ha occupato buona parte del sabato e della domenica, perché era un organo prelevato da un donatore che stava, era in Liguria, stava per andare, non sapevamo più se era idoneo o no, allora abbiamo forzato il prelievo, la regione dove è stato fatto non li ha accettati, sono stati mandati in un'altra regione, è stata fatta una biopsia che ha dato un esito quantomeno dubbio, anche in questa seconda regione sono stati rifiutati, dopodiché abbiamo riofferto quest'organo e sono stati arrivati, sono stati trapiantati. E oggi abbiamo sentito che c'era un eco Doppler, un eco con diciamo una normale circolazione arteriosa e una normale circolazione venosa, il che vuol dire che il rischio della necrosi corticale, cioè che fossero partiti glomeruli, non c'era, e ci sarà una necrosi dei tubuli, quella è un rene che probabilmente fra qualche giorno parte. Ovviamente ci vuole una capacità chirurgica, ma qui davvero parlo nella regione dove fra Padova e Verona ci sono le massime capacità in questo senso in Italia, e questo è acclarato ormai, e quindi c'è davvero questo spezzare il pane per gli altri. Questo è la donazione degli organi, spezzare il pane. E l'ultimo esempio che voglio fare fu una cosa che mi colpì moltissimo ed era nella mia parrocchia, perché andai nella mia parrocchia ai funerali del professor Gozzetti, che forse qualcuno si ricorda il nome, era un chirurgo di Bologna che morì con una forma leucemica in qualche modo legata a un'infezione virale che ebbe. E il parroco della parrocchia, che è poi il punto dove anch'io mi sono formato, nell'omelia disse, il professor Gozzetti, che era un importantissimo trapiantologo italiano, trapiantologo di fegato, disse il suo merito è quello di avere reso l'uomo più simile a quella forma che noi avremo dopo la nostra morte. Chi resuscita avrà un corpo perfetto. Io guardo, ma... cito queste cose teologiche un poco con difficoltà, però è così. Allora il trapianto ci affianca, ci avvicina a questo corpo perfetto, non per un motivo estetico, non per un motivo estetico e non per una vita più lunga, ma per una vita che è quello che ci aspetta. Allora, e concludo con una frase che è venuta parlando con una giornalista nei giorni scorsi, dopo la morte del papà di Nicholas Green, la morte della persona che aveva ricevuto il cuore di Nicholas Green, che è morto con una fibrosi polmonare che era insorta dopo la chemioterapia fatta per un linfoma al Bambin Gesù. E se i trapianti sono davvero una nuova vita, dico una battuta, ma lo sanno molti, che si fa la... chi ha ricevuto un trapianto fa il compleanno il giorno in cui ha ricevuto il trapianto, ne fa due di compleanni, e lo fanno tutti i pazienti, tutti lo fanno, naturalmente, senza che nessuno li istruisca. Allora davvero concludo dicendo, beh, io credo che il trapianto sia un canto alla vita. Grazie. Spot. Blu Radio Veneto è anche in streaming. Ascoltaci su bluradioveneto.it. I giorni della Chiesa. Grazie al professor Alessandro Nanni Costa, direttore generale del Centro Nazionale Trapianti, intervenuto al terzo degli incontri promossi dall'Associazione Ex Alunni dell'Antoniano a Padova sul tema della medicina, arte, scienza e pratica etica. Grazie all'associazione stessa degli Ex Alunni Antonianum, grazie a Telechiara che ha condiviso con noi la registrazione audio di questa serata. Ancora nei prossimi giorni proseguiremo il ciclo di incontri, che è composto da altre due serate con la dottoressa Maria Teresa Russo sul tema della salute perfetta, promessa utopia, per chiudere con Gianfranco Genesini, che parlerà di medicina personalizzata e medicina integrata. Per questo spazio di approfondimento è tutto, grazie di Daici Regia, Mirko Cavallini studio e redazione, buon ascolto. I giorni della Chiesa. Eventi e incontri della Diocesi di Padova.